Magazine 24, la rassegna dei settimanali. A cura di Mauro Meazza. Buona giornata, bentornati a Magazine 24, la nostra rubrica, il nostro appuntamento con la stampa periodica. Periodici italiani, periodici stranieri, periodici in allegato ai quotidiani. Questo sabato parliamo di 24, come sapete, mensile del Sole 24 Ore, da ieri lo trovate in edicola. Qual è la particolarità di 24? Lo dico per chi non lo sapesse, non l'avesse mai acquistato insieme al 24 Ore. Ogni mese 24 si concentra su un tema. Tra l'altro, qualche settimana fa abbiamo avuto appunto ospite qui a Magazine 24 Fernanda Roggero, che si occupa appunto di dirigere 24 e ci ha spiegato quali sono i temi che si andranno a trattare nel corso di questo 2010. Il tema del mese di 24 questa volta è i soldi. I soldi sono così centrali, naturalmente così essenziali alla vita, qualche volta prendono un po' il sopravvento forse nella nostra vita, e giustamente 24 ha deciso di dargli evidenza, di analizzare un po' il rapporto con il denaro nei vari articoli che compongono questo numero che trovate da ieri in vendita con il Sole 24 Ore. Vi leggo come vengono presentati i contenuti del numero proprio dalla introduzione di Fernanda Roggero. Gratta e vinci, scrive 24, niente altro che gratta e vinci. Questo ha risposto al fotografo Reed Young, autore di un servizio che trovate qui proprio sul 24, un newyorkese tra i tanti a cui a bruciapelo è stata posta questa domanda: cosa compreresti se avessi una disponibilità economica illimitata? Bene, gli è stato risposto: gratta e vinci, comprerai tantissimi gratta e vinci, biglietti della lotteria istantanea. L'incoerenza di questa risposta fa sorridere, ma è emblematica della relazione distorta che abbiamo con i soldi, al di là del loro effettivo valore d'uso. Come usiamo oggi il denaro? Quale valore gli diamo? Sylvie Quayod ci ricorda che ciclicamente, da 50 anni a questa parte, il contante è dato per morto a favore di carte di credito, borsellini elettronici, pagamenti via telefonino. Nonostante tutto questo, la carta moneta in circolazione continua ad aumentare. Allora, andiamo a vedere proprio questo articolo di Quayod che appunto parte dalla prossima scomparsa del contante. È un tema di cui si parla spesso, torna ciclicamente fuori, una profezia che però sembra non avverarsi mai. Titolo del servizio: a qualcuno piace cash? Sono 50 anni che ne viene annunciata l'estinzione, ma le banconote tengono duro. A fine 2008, secondo la Banca Centrale Europea, ne circolavano l'8,3% in più dell'anno prima, anche perché, ohimè, la carta moneta aiuta ad aggirare il fisco. E l'inizio dell'articolo della Quayod è proprio emblematico di questa profezia che non si avvera. I contanti hanno i giorni contati. Questo diceva Steve Perry, vicepresidente di Visa Europe, un mese fa, presentando alla stampa i piani di sviluppo aziendale. Anche gli europei sono pronti a usare il denaro smaterializzato. Borsellino elettronico, carta transit, carta contactless, pagamenti via telefonino, via onde magnetiche, radiofrequenze. Dal 2002 i pagamenti digitali crescono dal 12% all'anno. Nel 2008 sono arrivati a 1,68 milioni di miliardi, questi dati della Banca Centrale Europea. PIN, password, codice IBAN, chiavi crittografate e così via. Ci apprestiamo a raggiungere anche in Europa il Giappone, gli Stati Uniti, l'India, svariati paesi sulla via della cashless society, della società appunto senza contante. Nel gennaio 2007, lo diceva anche un altro presidente di Visa Europe, si prevedeva che nel 2012 saremmo arrivati di fatto a una società senza contante. Insomma, la morte dei contanti viene annunciata da mezzo secolo, leggo sempre da 24, ma l'annuncio pare ancora prematuro. Allora facciamo un passo indietro, ci racconta Quayod come è cominciato il lento abbandono del contante. Nel 1965 Bank of America offre l'uso gratuito di una sua carta di credito a una cliente. Questa cliente era una segretaria di San Francisco, si chiamava Ann Foley. Qual era la condizione per disporre di questa carta di credito? Doveva vivere unicamente con quella per un mese. La questione, naturalmente, la sfida veniva posta per fare pubblicità, per mostrare quante cose si potessero fare già nel 1965 con una carta di credito. L'avvenente signorina racconterà poi ai cronisti che gli unici problemi erano stati i taxi e le strade a pedaggio, superati con il noleggio di un'auto, e c'era stato anche un po' di problemi sui distributori di bibite, non sorprendentemente, verrebbe da dire. Alla banca in tutto lasciò un conto di 1728 dollari dell'epoca, poco per una campagna pubblicitaria, ma faceva 3 mesi del reddito medio di una famiglia dell'epoca. La trovata viene imitata non solo dagli istituti di credito, ci furono catene di hamburger che regalarono carte di credito, carte di debito o di credito sono state via via diffuse. Però, nonostante appunto questi tentativi che ormai risalgono agli anni 60, che cosa sta succedendo? Nel rapporto che pubblica ogni aprile, leggo sempre dall'articolo di Quayot, la Banca Centrale Europea notava che in Eurolandia a fine 2008 circolava l'8,3% in più di banconote, per un valore del 12,7% in più rispetto all'anno precedente. La richiesta di nuovi biglietti era maggiore per le banconote da 100 e da 500 euro. Nel discorso che ha tenuto nel dicembre scorso Andrew Bailey, il cassiere capo della Banca d'Inghilterra, si è notato un andamento simile. I biglietti più richiesti, quelli da 50 sterline. Questa sarebbe la conferma che i contanti alimentano l'economia in nero. In tempo di ristrettezze anche venditori e acquirenti, che sono di solito onesti, preferiscono aggirare le imposte, e chiaramente il ricorso al contante è una delle modalità che si possono utilizzare. Dove sono finiti questi soldi? Questo naturalmente è un po' più difficile da capire, perché i consumi sono calati, i conti in banca non risultano in aumento, quindi una tesi viene proposta da Rino Rumiati. Rino Rumiati si occupa di ricerca in psicologia delle decisioni economiche a Padova e dice: attribuiamo sistematicamente più valore a una banconota che al suo equivalente digitale, siamo più restii di conseguenza a separarcene, la spendiamo quindi con oculatezza, insomma li abbiamo tenuti in tasca, li abbiamo tenuti, come qualche volta si dice in questo caso, sotto il materasso. Vi do una brevissima anteprima, prima di lasciare 24 degli altri temi che saranno trattati poi nei mesi a venire. La sostenibilità sarà il tema sarà il tema della prossima puntata, poi avremo la sostenibilità, i giovani, l'altro, e come ci spiegava già Rogero qualche settimana fa, il numero conclusivo di 24, l'ultimo mese di uscita, sarà quello dedicato alla felicità, un tema che si lega direttamente ai soldi. È perenne la domanda, appunto, se i soldi possano o non possano dare la felicità. L'ultima segnalazione di 24, allora, cosa fareste dei soldi? L'articolo che veniva evocato proprio dall'introduzione è questo fotografo che è andato in giro per New York, ha chiesto a un po' di persone: ma se lei avesse una disponibilità economica illimitata, che ne farebbe? Qual è la cosa che il denaro proprio non può comprare? È stata la seconda domanda rivolta a tutti. Ci sono state le risposte più bizzarre. Dice una signora, dice: comprerei biciclette per tutte le persone del mondo, e cos'è l'unica cosa che i soldi non possono comprare? La signora ha risposto: non permettono di trovare un modo semplice per perdere peso. Questa la preoccupazione che evidentemente più turbava la signora. Dalla fotografia non sembrerebbe, ma vi rimando al numero di 24 per un giudizio. Un giovane ha invece risposto che comprerebbe l'attrezzatura per la sua band musicale. Quello che i soldi non possono comprare, a suo giudizio, è l'orgoglio. Poi naturalmente il signore che comprerebbe solo gratta e vinci, perché tanto ritiene evidentemente che quello sia l'unico modo per arricchirsi. La risposta completa è: gratta e vinci, comprerei nient'altro che gratta e vinci a quintali. E la cosa che i soldi non possono ridare a questo signore che comprerebbe così tanti gratta e vinci sono i capelli, la sua originale e immaginiamo rimpianta testa capelluta. Queste e tutte le altre risposte sul numero di 24 che trovate in edicola. Ci sono anche naturalmente molti molti altri scatti di questo fotografo. Ogni risposta viene corredata dallo scatto, per farsi anche un'idea della persona che ha fornito questi tipi di giudizi. Magazine 24. Bentornati a Magazine 24. Stavamo parlando di soldi, perché soldi è il tema attorno al quale ruota il numero di questo mese di 24, il mensile con il Sole 24 Ore. Ma di soldi, in un certo senso, si occupa anche Famiglia Cristiana, affrontando un argomento invece di tutt'altra natura, è quello delle famiglie separate. L'approccio che Famiglia Cristiana ha scelto questa settimana per parlare di separati è quello appunto economico, e qui c'è il legame, diciamo la continuità con l'argomento dei soldi di cui si diceva. Padri separati e poveri è il titolo dell'inchiesta curata da Renata Maderna, Orsola Vetri, Stefano Stimamiglio e Maria Gallelli. Di che cosa si occupa precisamente? Di questo binomio che si crea con la separazione della famiglia, ma anche la necessità di dover mantenere naturalmente i figli con i vari obblighi che la legge impone in caso di separazione, il tutto unito, ohimè, alle incertezze che possono invece crearsi in questa fase di crisi, di difficoltà per l'occupazione. E questo è il riassunto che presenta l'articolo: separazione, mantenimento dei figli, difficoltà a pagare una nuova casa, se poi ci si mette la perdita del lavoro, la povertà è totale, sono in aumento i papà sconfitti dalla vita. Famiglia Cristiana ne parla perché presenta nelle sue pagine una serie di iniziative che vengono attivate da pubblico e privato per poter fare fronte ai momenti di difficoltà, appunto, soprattutto dei papà separati. L'articolo è incentrato sugli uomini in caso di separazione. Sono 4 milioni i papà separati, ci segnala Famiglia Cristiana, e di questi 4 milioni 800.000 risultano vivere sotto la soglia di povertà. Si contano 5.000 papà clochard a Roma, e il 70% a Milano di questi clochard frequenta naturalmente i dormitori. Da qui le iniziative per questi che l'articolo firmato da Maria Gallelli definisce come i nuovi poveri: sono gli ex mariti italiani in difficoltà economiche. Secondo i dati dell'Associazione Matrimonialisti Italiani ci sono appunto 50.000 di questi casi tra Milano e provincia, e la segnalazione è: il divorzio è un privilegio per ricchi, non per i separati a bassa soglia. Chi guadagna anche 1.300 euro al mese ma deve versarne poi 800 per il mantenimento di moglie e figli, deve pagare un affitto per sé perché la casa resta alla famiglia, rimane, ohimè, solo con gli occhi per piangere. Questa è la dichiarazione di uno dei padri separati raggiunto appunto dalla Gallelli. Figuriamoci poi se tutto questo si aggiunge alla perdita del lavoro. Il fenomeno, da quello che risulta da altri dati che sempre accompagnano questa inchiesta di Famiglia Cristiana, è poi in aumento. Le separazioni in particolare, come si sente spesso dire, qui qualche numero appunto del settimanale ci aiuta. Ci sono state nel 2007 81.359 separazioni, in crescita rispetto alle 47.000 del 2005, quindi in due anni una crescita di 34.000 unità più o meno. Nel 73,3% dei casi, sulla base di questi dati, le separazioni sono state chieste dalle donne, dalle mogli. Nel 55,2% le istanze di divorzio invece richieste dai mariti. Ci sono 100.000 e più figli coinvolti nelle separazioni, il dato completo al 2007 era 100.252, e ci sono 49.000 o poco più figli di divorziati. Nel 95% dei casi, e questo è spesso fonte appunto anche di disagio per questi padri separati, nel 95% dei casi, dicevo, i figli continuano a vivere con la madre. Sappiamo che preferibilmente anche nelle decisioni dei giudici si preferisce appunto affidare i figli alle cure della madre e non a quella del padre, e in questo modo però si crea un distacco affettivo importante. Poi l'inchiesta Famiglia Cristiana prosegue con le vicende, diciamo, un po' più dure, un po' più difficili di chi avendo perso anche il lavoro si ritrova a vivere un po' della carità, della beneficenza, della disponibilità altrui. Ma lo stesso tipo di argomento, ovvero la separazione e le vicende che possono essere connesse, si ritrova questa settimana, si ritrovava su Vanity Fair, perché Vanity Fair presentava un articolo di Mariangela Mianiti dedicato proprio a una storia, la storia di Alessandro Cerdiello, che è il presidente dell'associazione, della sezione napoletana, chiedo scusa, dell'associazione Padri Separati. Qual è la particolarità di questo padre separato rispetto appunto alle vicende più economiche, più di difficoltà economiche che abbiamo visto, che vi ho segnalato da Famiglia Cristiana? Che per questo padre separato, dopo la separazione, è intervenuto anche il disconoscimento dei figli avuti dal suo matrimonio, perché ohimè, purtroppo non erano figli suoi dal punto di vista biologico, e lui ovviamente era invece convinto del contrario. Viene descritto appunto in questo articolo su Vanity Fair, articolo di Mariangela Mianiti, come un uomo mite e sorridente, si imbarazza di fronte alla macchina fotografica. Questa è la prima volta che racconta pubblicamente la sua storia, mostrando volto e nome. Dentro di sé, spiega la Mianiti, continua a portare il pensiero di quei due figli che ha cresciuto come suoi, che con dolore si è visto costretto a far certificare dalla legge come non suoi. E naturalmente è visibilmente commosso, insomma, quando deve ricordare questo dettaglio. Vi leggo solo un paio di passaggi. Appunto, dal momento della separazione c'è stata una difficoltà, insomma, ha potuto vedere i figli solo per poco tempo. Dopodiché, però, quando è intervenuta la richiesta di disconoscimento, questo tempo disponibile si è ridotto ulteriormente. Lui ricorda un'ora al mese o alla settimana, non lo ricordo neanche più, ma in presenza di un assistente sociale. Il giudizio di questo padre separato è: che rapporto avrei costruito in quelle condizioni? A quel punto preferì procedere definitivamente con il disconoscimento per rendere la vita più chiara. E dice, gli chiede la collega Mianiti, quanto spesso pensa ai figli? Dice, in continuazione, sono dentro di me, fanno parte della mia storia. Il legame di sangue, spiega, è una sovrastruttura culturale, rende padri di nome, ma non è detto che renda padri di fatto. Quando un figlio lo desideri, lo cresci, lo ami, sarà sempre figlio tuo. Nel frattempo, dice, io ho avuto una grande fortuna, ho incontrato un'altra donna e ho avuto un'altra bambina, quindi questo mi ha salvato. Ma mi sembrava molto, molto bella questa dichiarazione della paternità, come dire, di testa, della paternità di cuore, che è decisamente più importante, viene riconosciuta anche da chi ha fatto un percorso così difficile, così anomalo, come l'unica paternità. Cambiamo decisamente argomento per tornare invece su una vicenda che avevamo già segnalato nelle settimane scorse. Si tratta della mostruosa quantità di dati che ci bombardano quotidianamente, che ci bombardano ogni giorno e di cui disponiamo, ma forse in realtà non disponiamo neanche più. Forse qualcuno tra gli ascoltatori ricorderà questo studio dell'Università di Berkeley in California, che ha provato appunto a calcolare quant'è effettivamente il numero di dati che ci viene somministrato, che ci viene messo a disposizione ogni giorno, e in realtà quanto poi riusciamo a raccoglierne. Perché, e questo è il tema appunto di un report, di un'inchiesta molto lunga dell'Economist di questa settimana, davvero c'è un diluvio di dati. Questo è anche il titolo di copertina dell'Economist, e dice: quantificare la quantità di informazioni che esiste nel mondo è difficile. Quello che è chiaro è che comunque sono maledettamente troppi, e c'è una crescita a un ritmo imponente, all'incirca si parla di una crescita del 60%, che sta continuamente aumentando. Allora, questo studio dell'Università della California ha provato a quantificare appunto la nostra esposizione, calcolando appunto in 3,6 zettabytes di informazioni, 34 gigabytes per persona al giorno. Questo il calcolo che hanno fatto gli studenti e i ricercatori della California. Quello che non sorprende è che la maggior parte dei dati in realtà oramai ci arriva non più in forma scritta, non più in forma di articoli, ma soprattutto dai videogames e dalla televisione. Dal punto di vista dell'esposizione dei dati, questa è la maggiore quantità che ci arriva. Addirittura, se poi si cita il caso degli scienziati che hanno a disposizione così tanti dati che molti decidono di lasciarli perdere, di ignorarli, perché non saprebbero saprebbero davvero gestirli. E con questa segnalazione invece noi ci fermiamo, non abbiamo altri dati per questa mattina. Vi do appuntamento, se volete, a domani mattina alle 8.30. Ringrazio Filippo Aureggi, stamane in regia, nonché Vittoria Mussini e Emanuela Sicuro, che mi hanno aiutato a preparare questo programma. A risentirci domani.